ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Mal di testa, se lo conosci te ne liberi. Voglio iniziare subito la nostra chiacchierata mattutina con questo messaggio che rivolgo a chi si è alzato con il classico cerchio alla testa o con quel dolore pulsante, quel dolore che a volte colpisce quella la zona intorno agli occhi, insomma a tutte le amiche e gli amici che si sono svegliati dicendo mamma mia mi scoppia la testa. E di mal di testa parliamo con un grande esperto, è tornato a trovarci il professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma e presidente eletto dell'ANIRCEF. Professor Barbanti, buongiorno. Buongiorno, bentrovata. Allora, io mi sono portata avanti e ho detto il mal di testa, se lo conosci te ne liberi. Perché prima di tutto bisogna conoscere il mal di testa di cui soffriamo, individuare bene il problema. Spesso diciamo mal di testa, ma ce ne sono diverse forme, cefalea tensiva, quella a grappolo, l'emicrania, i medici si sono addirittura sbizzarriti a trovare anche nomi curiosi, divertenti, a rombo di tuono, da attività sessuale, ipnica, da tosse, da hot dog, a dinamite. In realtà, professor Barbanti, bisogna vederci chiaro. Che cosa e come possiamo aiutarla a darci delle indicazioni, dei consigli preziosi? Ad esempio, che cosa dobbiamo raccontarle? Dove si localizza il dolore? La frequenza degli attacchi? La durata dei sintomi? Allora, intanto diamo una buona notizia. Il 90% dei mal di testa sono benigni, cioè tanto rumore per nulla. Il rumore è proprio tanto perché il dolore è davvero molto forte, ma solo un 10% delle cefalee sono secondarie, cioè dovute ad una malattia del cervello, della circolazione e così via. Dicevamo che cosa serve al medico? Servirebbe un caro diario. Una persona tende a fare tanti esami per vedere la causa del proprio mal di testa, che non troverà mai se è una cefalea primaria. Sarebbe importante un po' riprendere l'abitudine che era in voga negli anni che furono, di descrivere e quindi dire, per esempio, incominciando tanto a fare una foto del passato, ma qualcuno ne ha sofferto in famiglia, io ne ho sempre un po' sofferto, questo già ci dice tantissimo, perché per esempio l'emicrania è una malattia molto familiare, nel senso con prevalenza familiare e forse anche genetica, e che comincia già nella giovane età. E poi descrivere il dolore. Dove ti prende, quale parte della testa, quanto ti dura, a che ora comincia, quanto è forte e poi di che tipo è il dolore. Il paziente dice, ma sai, professore, è un dolore. Sì, ma se io ti pungo un dito, te lo brucio, te lo schiaccio nella porta, è sempre un dolore forte, ma è diverso. Beh, intanto cominciando con questi sintomi e dicendo poi come si comporta durante l'attacco, se rimane fermo, se esce per fare una passeggiata, prende aria, se ha la nausea, se ha lacrimazione di un occhio o congestione di una parte del naso, il medico, il neurologo avranno quasi tutti i dati per fare la diagnosi. Professor Barbanti, mi scoppia la testa, che faccio? Prendo il caffè, faccio una passeggiata, mi prendo una pillolina? Intanto ho già una diagnosi, perché scoppia la testa è un qualcosa che ti dice praticamente solo il paziente emicranico. È fantastico il mondo del mal di testa perché c'è una correlazione precisa tra la qualità del sintomo che dice il soggetto laico, cioè il paziente, e il meccanismo fisiopatologico che c'è alle spalle. Scoppia la testa perché il vaso, che pulsa normalmente, intendiamoci bene, non pulsa di più, ha però tutte le pareti infiammate e sensibilizzate, come la nostra bocca quando mettiamo una di quelle terribili caramelle balsamiche. A quel punto, esatto, si chiama sensitizzazione periferica, il termine rende meno della caramella balsamica. Quello che deve fare allora in quel caso il paziente è correre ai ripari presto, e un rimedio che non è della nonna, perché è un farmaco, è l'uso della caffeina, è la prima cosa. capiamoci, se uno ha a disposizione il proprio analgesico probabilmente fa meglio a far così, però chi si sveglia con un leggero mal di testa pulsante, non è raro che dopo aver preso un caffè piuttosto lungo, magari sui 100 mg di caffeina, avverta un beneficio, perché la caffeina è vasocostrittrice e dà un effetto contro i recettori dell'adenosina, in qualche modo sbilancia il sistema nella neurotrasmissione in maniera compensativa e sgambetta la partenza dai blocchi della emicrania. Professor Barbanti, invece che cosa non si deve fare? Beh, intanto quello che occorre evitare di fare è di lasciarlo partire, è un po' la risposta che abbiamo detto prima. Attenzione, questa cosa, il trattarlo presto, vale per tutti quelli che hanno al massimo un paio di attacchi a settimana, perché altrimenti quelli che ne hanno molti di più, picchiando il mal di testa alle sue prime bizze, rischiano di cronicizzarlo. Professor Barbanti, ho letto che il 4% delle persone nel mondo soffre di mal di testa tutti i giorni. Abbiamo parlato di mal di testa cronico. Esiste uno stile di vita che favorisce la trasformazione di un mal di testa episodico in un mal di testa cronico? Cioè quei due attacchi alla settimana, che sono molto fastidiosi, però gestibili, quali possibilità, quali rischi hanno di diventare attacchi quotidiani? Io mi compiaccio nel vedere che lei è sempre più esperta, perché esattamente due attacchi a settimana sono il limite che conferisce al soggetto un 30% di rischio di diventare cronico contro l'8% medio degli emicranici a bassa frequenza. Allora, alcuni fattori predispongono alla cronicità e non li possiamo modificare. Il sesso femminile, l'età tra i 40, intorno ai 40 anni, lo stato di vivere separati o divorziati è uno status che facilita questo. Però i fattori principali sono lo stress, l'impulsività, la depressione, l'ansia, gli eventi di vita. Ma questi sono proprio in pole position. Poi in 14ª fila parte l'ipotiroidismo, il russamento, l'ipertensione arteriosa. Qualche volta vincono anche quelle delle retrovie, quindi non dimentichiamo che questi fattori vanno comunque indagati. Ma la stragrande maggioranza dei soggetti sono soggetti con problemi di nervi, uso le virgolette, sì, che non suoni come accusa al paziente. Il cervello è un viscere che dà segno di sé anche così quando lo trattiamo male. Professor Barbanti, come presidente eletto dell'ANIRCEF, che è l'Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulla Cefalea, quali novità ci porta? Beh, direi che le novità sono senza dubbio due. Da un lato, per la prima volta dopo 60 anni di cure non specifiche, esistono cure specifiche preventive per l'emicrania, sono anticorpi monoclonali diretti contro un peptide chiamato CGRP, che è il mattatore alla Gassman dell'attacco. Non è l'unico mattatore, ma è sicuramente il principale. Farmaci che sono estremamente efficaci e senza eventi avversi, l'AIFA non li farà dare a tutti ed è giustissimo, la rimborsabilità è prevista per chi abbia almeno 8 giorni al mese di emicrania, abbia fallito 3 trattamenti precedenti ed abbia una disabilità di un certo livello. C'è anche un'altra novità in cantiere che uscirà nei prossimi 2 anni, si crede, delle compresse, quindi un uso orale, questi invece sono sottocutanei o endovenosi, che bloccano il CGRP ma assunti quotidianamente, una classe chiamata gepanti. E poi l'altra novità che vede noi come gruppo protagonista, non è carino dirlo, ma insomma è facile. Ma diciamolo lo stesso. Ma diciamolo, è la creazione del registro nazionale dell'emicrania, cioè l'emicranico conta poco perché non si è mai contato. E quindi dare le dimensioni vere del fenomeno, problema, certo. E tutti i centri che lavorino in rete tra di loro raccogliendo gli stessi dati, consentirà di produrre anche i dati di impatto sulla sanità pubblica. L'emicranico spreca non con gli anticorpi monoclonali, ma con decine di risonanze inutili che poi bloccano anche i laboratori di analisi. E poi fanno, insomma, l'emicranico è sempre malato, perché anche se io ho 5 attacchi al mese, molto violenti col vomito, come posso vivere gli altri 25 giorni se non passando per noioso perché non voglio uscire a cena, d'estate non mi metto al sole, certo, non voglio fare gli stravizi, e quindi vive facendo lo slalom. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata, spero di sentirla prestissimo.